Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 21 gennaio, buongiorno, bentornati o se siete nuovi benvenuti su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda tutti i giorni, un'ora al giorno, sui nostri canali che sono Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Io sono Caterina Bombarda, qui con voi per mezz'ora con la nostra Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao a tutti e buon fine settimana. Esatto, siamo al venerdì e allora come non condirlo con un po' di sport, perché ecco, parliamo di rugby oltre le sbarre, che è un progetto, questa iniziativa di creare all'interno delle carceri una cultura dell'accoglienza e del sostegno, supportando sia la fase di detenzione sia la fase successiva di reintegro in società. È un progetto che quindi appartiene alla regione Lombardia, ma sappiamo che il rugby è praticato anche in altre carceri, penso per esempio alla Dozza di Bologna, ma su questo ritorniamo più tardi, e il rugby è uno tra gli sport più antichi della storia e, come spesso accade, vedi per esempio la boxe, queste discipline che apparentemente sono dominate dalla forza bruta, dall'aggressività, sono invece ritenute, anzi definite discipline nobili. Questo perché per quanto sul rettangolo di gioco come sul ring avvengono spesso colpi pesanti, tuttavia prevalgono la correttezza, la lealtà e la sportività come valori imprescindibili. Eh sì, quindi oltre allo sport come movimento fisico, il valore aggiunto per le carceri si trova proprio nelle parole che ho appena detto: correttezza, lealtà, sportività. Eh sì, e questo progetto Rugby Oltre le Sbarre, come dicevo, in Lombardia, riguarda gli istituti penali milanesi, come quello minorile Beccaria di Milano, la casa di reclusione di Milano e la casa circondariale di Milano San Vittore. E chiaramente il significato è molto chiaro: i detenuti mettono alla prova la gestione della propria aggressività e della rabbia su un sistema di regole tecniche, ma soprattutto etiche. E se anche non hanno aggressività o rabbia, perché non è vero che i detenuti sono arrabbiati o frustrati, magari vogliono solo divertirsi, come dici tu, fare sport e correre all'aria aperta, ecco, ben venga, ancora meglio. Tra le iniziative nelle carceri lombarde ricordiamo in particolare Freedom Rugby all'interno dell'Istituto Penale Minorile Beccaria di Milano, che è stato un progetto apripista di Rugby Oltre le Sbarre, che ha coinvolto i ragazzi tra i 15 e i 22 anni in attività come le giornate dello sport, i camp multisport settimanali all'interno del penitenziario. Poi con Rugby Ball al carcere di Pollate sono invece stati coinvolti centinaia di detenuti tra i 18 e i 50 anni e il nome della squadra, pensate, è Barbari di Pollate, un nome che si sono dati loro anche per ricordare la diversità e l'inclusione tipiche della loro squadra. Il gruppo infatti è eterogeneo, chiaramente ci sono età diverse, provenienze geografiche diverse e anche provenienze penali diverse. Si chiama invece Ronin, la squadra del carcere di San Vittore, che fa capo al reparto La Nave, una sezione dedicata alla cura di detenuti pazienti che presentano invece dipendenze da sostanze stupefacenti e alcoliche. Ma volevo anche ricordarvi che alla nostra casa circondariale Dozza di Bologna c'è una squadra di rugby che si chiama Giallo Dozza Bologna Rugby, e di cui fa parte il nostro Fabrizio, che è un ascoltatore, un amico di Eduradio, che ci ha scritto una lettera e ci dice che il rugby è uno sport in cui non ci si dà la colpa, non ci si umilia, non si deride del proprio errore, ma ci si incoraggia a fare meglio all'azione. Quindi non importa alla fine se vinci o perdi, importa l'insegnamento dei valori che ti vengono trasmessi. E quindi nella vita come nello sport non è mai troppo tardi per recuperare. Questo ci insegna anche la grande lezione del rugby in carcere. Dedico la prossima canzone, sempre di The Weeknd, a Fabrizio, che ci ha scritto. Si chiama Blind Lights e ascoltatela. Ci rivediamo tra pochissimo con Antonella. Too much. Sì, bentornati, sempre dopo la pausa musicale su Liberi Dentro di Radio e TV. Abbiamo, come di consueto, il venerdì, il nostro venerdì animalesco, vero Antonella? Sì, sì, Caterina. E oggi parliamo di un cane, perché ho letto un articolo scritto da Francesca Danilo Toscano sulla rivista della Natura, ma soprattutto perché mi è capitato di visitare un canile e di trovarvi un gruppo piuttosto numeroso, saranno stati 5-6, pitbull, comprati da persone che li hanno abbandonati perché troppo impegnativi. E intanto specifichiamo che l'American Pitbull Terrier, conosciuto semplicemente appunto come pitbull, è una delle razze più richieste sul mercato. Eh sì, questa cosa di trovare proprio il pitbull al canile mi colpisce, che, perché è anche uno tra gli animali più richiesti, ma che inquieta anche un po', è un po' spaventoso, no, al vederlo. Sì, e poi Caterina ha una personalità molto forte, ma talmente forte che quando pensiamo ai pitbull, ma a noi ci viene in mente proprio l'idea del cane aggressivo. È una razza decisamente non facile da gestire, lo dimostra anche il fatto che nel canile ce ne siano tanti, per tanti motivi, tra i quali appunto la necessità di addestrarli in modo ferreo. Se opportunamente addestrati possono rivelarsi affidabili e fedeli. Etimologicamente parlando, il pit in inglese è l'arena dove avvenivano i sanguinosi spettacoli di combattimento dei cani. Il nome Pitbull Terrier deriva proprio da questo contesto, significa Bull Terrier della fossa. E qui ovviamente il pitbull era il personaggio principale. Però la razza vera e propria nasce poi da una riselezione americana del Bull and Terrier, ed è un po' il lavoro degli allevatori statunitensi che ebbe inizio nel 1845 e si focalizzò sugli esemplari importati dall'Irlanda. Ma dicevamo, facevamo accenno all'aggressività del pitbull per come si presenta, ma com'è fisicamente? È un cane resistente, solido, in forma? Allora, guarda, è un cane di taglia medio-grande, dal dorso corto, decisamente robusto, muscoloso, un po' tarchiato nella struttura, ben scolpita, che gli permette poi di avere quella postura fiera e sempre vigile, che è poi pure quella che ci spaventa. Verso gli standard FCA, che sono degli standard che riconoscono un poco tutta una serie di caratteristiche, la sua altezza deve vacillare fra i 41 e i 54 centimetri, mentre il peso può variare dai 13 ai 34 kg. I tratti distintivi sono sicuramente la sua mascella molto pronunciata e il suo muso. Sapete che quando un cane ti azzanna, poi non molla neanche più la presa, è una mascella veramente potente. E sempre in sintonia con gli standard ufficiali della competizione, questa razza, riguarda un po' il mantello, ammette sia il colore unico, infatti a volte sono marroni, tutto di un colore, oppure anche pezzature bicolore o tricolore. Il pelo è corto e denso, e molto facile da quel punto di vista prendersene cura. Sono cani forti oppure mi sbaglio? Perché magari rispetto ad altre razze come il bassotto, il carlino, che magari sembrano più delicate, loro hanno una resistenza maggiore. Guarda Caterina, in realtà l'American Pitbull Terrier è una razza predisposta ad alcune patologie a livello di salute, tipo la displasia all'anca. Questo rischio può essere ridotto al minimo attraverso un'adeguata scelta in allevamento, infatti le selezioni sono molto importanti. E altri problemi di salute possono essere l'artrosi all'anca o l'osteoartrite, che possono essere ridotte mantenendo il peso giusto. E gli sport cinofili come l'agility dog possono divertire tantissimo questo tipo di cane, a patto che si evitino i salti troppo frequenti oppure troppo alti, proprio per la displasia all'anca a cui tende. In ogni caso è fondamentale non fargli esercitare sport faticosi ed evitare che salgano troppe scale prima che sia completamente cresciuto, che poi è un po' un'indicazione che si dà per tutti i cani. I cuccioli è meglio che non salgano e scendano le scale troppo frequentemente. E poi hanno anche alcune allergie che potrebbero essere il tallone d'Achille di questi cani, tipo delle irritazioni cutanee. E infine diciamo anche che la loro vita media è di 12 anni, anche se sempre che ci si occupi di loro in modo adeguato. Qualcosina sul carattere. Ogni cane ha un carattere diverso, il pitbull. Allora guarda, è proprio così, ogni cane come ogni persona ha un carattere diverso. Diciamo che loro non è del tutto semplice, perché la sua indole, l'indole di questi cani, è irruente e crea a volte problemi nel rapporto con i propri simili, soprattutto quindi con gli altri cani. Con gli sconosciuti invece risulta essere piuttosto socievole, non rinunciando a scodinzolare a chi, a coloro che gli stanno più simpatici. In famiglia la loro irruenza si attenua, o meglio, si trasforma in un grande attaccamento ai padroni. È una razza che necessita di grande attenzione, ha bisogno di un rapporto molto stretto col suo padrone, quindi molta cura, ma anche di una ferrea educazione, altrimenti il cane prende il sopravvento sul padrone, che spesso appunto porta il cane al canile perché non lo riesce a gestire. Il pitbull è anche un buon compagno di gioco per i bambini, attento, apprensivo nei loro confronti, ma comunque bisogna sempre stare attenti perché, come dicevo, c'è questa irruenza che bisogna tenere sotto controllo. A questo punto però passerei all'ultima canzone di Adele con Someone Like You, sempre del 2011, e vi ricordo che subito dopo ci sarà l'intervista a Nicoletta Nicolini di Avoc, non perdetela, e ancora buon fine settimana. Ciao! That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I think I'll remember you. Sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the bentornati sempre di nuovo a tutti e tutte le nostre teleradioascoltatrici e ascoltatori su Liberi Dentro e Edu Radio e TV. Continuiamo già da alcuni giorni l'intervista con Nicoletta Nicolini. Ciao Nicoletta, bentornata. E stiamo parlando di colloqui, di volontariato in carcere. Ieri ci hai raccontato una storia bellissima di un incontro tra un padre detenuto e la sua famiglia. E io vorrei chiederti quali sono i bisogni delle persone quando sono in carcere, cosa chiedono? Ma chiedono adesso, soprattutto sono molti giovani, chiedono la casa, un lavoro per poter uscire, oppure chiedono il contatto con una comunità, oppure ti chiedono, ad esempio, l'ultima è stata due persone che giovani che sono entrambi in carcere e mi hanno chiesto se posso interessarmi perché loro si vogliono sposare in carcere, quindi per avere tutti i documenti per potersi sposare all'interno del carcere. Quindi ho contattato il comune, eccetera, eccetera, ci vuole l'autorizzazione, insomma, è una cosa più complicata e così. E poi tante altre richieste, non so, ad esempio, contatti l'avvocato, senti la famiglia, ma sono le più svariate, no? Come richieste. Però ecco, soprattutto il lavoro, la casa, sono gli elementi che potrebbero per alcuni farli uscire, ma è molto difficile anche per noi. Io apro le braccia, mi sento molto impotente perché non è che abbia casa e lavoro da Capisco, no, offrire. no, è chiaro, certo, è la società che si rispecchia nel carcere, è sempre uno lo specchio dell'altro, quindi i problemi che sono grandi fuori ci sono anche dentro, chiaramente, il lavoro, la casa e i contatti con la famiglia. Ma un'altra domanda curiosità che avrei è proprio se dopo la relazione che si instaura tra un volontario e una persona all'interno del carcere, dopo il carcere, se è possibile mantenere un rapporto amichevole, ecco, alla pari. Guarda, io ho tante belle storie, ad esempio, con alcuni detenuti di allora, politici, che marito e moglie, che vivono nella nostra zona e che hanno sono le anime, diciamo, di una comunità, di una cooperativa che dà lavoro ai detenuti e anche noi abbiamo fatto ristrutturare la casa chiamando loro. Con loro c'è un rapporto, ad esempio, eravamo a cena assieme qui a casa nostra prima del Covid, poco prima della pandemia, e si è creato proprio anche all'esterno un rapporto molto bello. C'è un detenuto uscito da poco. Che mi sono commossa perché ha parlato anche al Festival Francescano e lui ci scriviamo via mail, è stato anche lui tanti anni dentro e veramente il rapporto di amicizia è molto profondo, c'è un legame profondo tra noi. Non so, pure Antonio, che intanto è un nome come tanti, che mi telefona e mi racconta delle sue del lavoro che fa, di questo, della sua salute che non è. E quindi tantissimi, ma purtroppo tanti me li ritrovo anche in carcere, perché chi non trova fuori un lavoro, non ha una casa, ritorna nel giro, quindi la recidiva è molto alta, il 70%. Io in tutti questi anni, quante persone, carcerazione dopo carcerazione, me li sono ritrovati, hanno commesso lo stesso reato, ecco. Sì, esatto, la recidiva è un tasto dolente per il carcere e non solo, è anche per la società, per la città, Certo. perché vuol dire che non abbiamo la capacità di sostenere delle richieste che ci vengono dallo strato civile, che sono anche le persone detenute. E io vorrei chiederti, così, prima di concludere la puntata, se vuoi salutare le persone che ci stanno ascoltando. Tra l'altro, proprio in questi ultimi giorni ci è arrivata la notizia che di nuovo c'è la sospensione dei colloqui, quindi né io né te siamo potute entrare a fare il nostro compito, quindi se le vuoi salutare, rivolgere un saluto. Sì, io vorrei un abbraccio forte a Atos, che vive un momento particolarmente doloroso. Poi ci sono tanti altri, Gianluca, c'è Salvo, c'è Davide, c'è Igli, c'è Raffaello, poi c'è Davide, l'ho già detto forse Davide, poi Otmani, Yamal. Vorrei salutare e abbracciare un pochino tutti, poi dopo c'è Luigi, Domenico, sono tutte persone che sto incontrando adesso, insomma, e quindi li mando un forte abbraccio sperando di rivederle presto, di poter ritornare, sperando che la prossima settimana si possa, perché sembra che sia soltanto per una settimana il blocco. Speriamo che sia così, però io so anche che tu hai un piccolo scritto che ci vuoi leggere, anche perché il problema di Eduradio è che manca la loro voce qui sul programma, però so che tu hai qualcosa di scritto che ci puoi leggere. Sì, un piccolo che a me sembra molto bello, scritto da un detenuto, dice: sono caduto troppe volte, ma un frammento di bene è sempre acceso in me e le relazioni umane possono rifiorire anche dentro questo mondo pesante. Posso risorgere persino in carcere che vuole inghiottirmi vivo nel suo cemento. Guarda, è molto, molto bella questa lettura, che ci dà anche l'occasione di lanciare il brano A Venire, anche, come dire, facendo appello simbolicamente a una primavera del cuore, quando tutto rinasce, no? E quindi Le rondini di Lucio Dalla lo lanciamo con te, Nicoletta, e ti ringrazio tantissimo. Speriamo che ci scrivano anche loro, che rispondano al tuo saluto. Redazione Liberi Dentro, @gmail.com. Loro lo sanno ormai, lo diciamo sempre. Ciao Nicoletta, grazie. Ciao, ciao a tutti. Entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè, fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. Girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità, eseguire ogni battito del mio cuore, capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove, da dove viene ogni tanto questo strano dolore, vorrei capire insomma che cos'è l'amore. Siamo sempre giunti ai saluti di fine puntata, che per noi è anche l'occasione per raccontarvi le nostre rubriche. Oggi, che è venerdì, abbiamo Islam, religione e civiltà con Andam Al-Zekri e Ignazio De Francesco, dove ci racconteranno l'esempio di Giuseppe, che è un profeta che ha subito il carcere e che ha imparato anche a controllare la sua rabbia. A seguire ci sarà la rubrica a cura di Adriano Moraglia, giornalista e scrittore, che si intitola Imparo da te, che ci presenta la storia di Giovanni Papagno. Poi il sabato abbiamo Parole Chiave a cura dell'arcivescovo Matteo Zuppi di Bologna, a seguire la rubrica Parliamo di Buddismo e a seguire ancora la rubrica Università in Carcere, dove ci sarà l'intervista alla professoressa Elisabetta Carfagna, che è docente presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna, che in passato ha anche lavorato in qualità di statistica all'ENI e alla FAO. Segue per concludere Teatro Oltre le Sbarre con l'intervista di Paolo Aleotti a Carlo Bussetti. La domenica iniziamo sempre con Yoga Aratna, un percorso di libertà a cura di Franco Bonisoli e Laura Russo, e per concludere il FOMAL con Chef al Fornelletto, che ci presenta la ricetta della ciambella bolognese. Grazie a tutti, redazione liberidentro@gmail.com, l'indirizzo per scriverci, e come al solito un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortesa, Enea Flacco, Diana Bota, Paolo Aleotti. Ci rivediamo lunedì e buon fine settimana a tutte e tutti. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.